Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Io qui a Nemo sono un paziente, sono un ragazzo che viene qui per le cure che offrono qui a Nemo, per gli aiuti che offrono qui a Nemo alle famiglie delle persone con disabilità. E poi Nemo è anche un ritrovo per noi ragazzi che ci siamo accomunati dalla nostra situazione e che alla fine ci troviamo non solo qui, ma anche poi la sera, il giovedì sera, agli allenamenti a fare wheelchair hockey, che è il nostro sport e la nostra passione. Inizia così il nostro viaggio all'interno di questa storia che parla di malattie neuromuscolari e di cure che rendano la vita migliore, ma anche di amicizia e sport. Una puntata giocata su diversi piani che dalle corsie del centro Nemo ci porta a un palazzetto dello sport. Ma procediamo con ordine. Alberto Masini è il vice capitano della squadra di wheelchair hockey. È una storia lunga, nel senso che ho cominciato quando ero all'elementare, perché ho scoperto questo mondo tramite Marco Lasconi, che è il presidente WILM, e andavo da piccolo a fare gli allenamenti quando facevo le elementari e ero uno scricciolo insieme a tutti questi ragazzi che avevano 30 anni e avevo una paura folle di allenarmi, non sapevo come fare, e sono stato qualche mese, non penso di più, perché poi c'erano anche le trasferte, erano in A1 a quel tempo e quindi ci sono trasferte più lunghe e non ce la facevo, e quindi ho mollato, anche perché non ne capivo l'importanza per noi ragazzi. Poi invece molti anni dopo, grazie a mia mamma che mi ha spinto a ricominciare, ho ripreso e poi mi sono ritrovato qualche anno dopo sempre a Milano, nella stessa squadra dove avevo cominciato, con gli stessi parastinchi, con i colori della squadra che avevo comprato quando ero piccolo, quindi è stato proprio un cerchio che si è chiuso e niente, questa è stata la mia storia, e poi da lì non ho più smesso e ho sempre continuato con sempre più voglia. Ma ci sono tanti ragazzi e ragazze con la nostra patologia che pensano di non poter fare sport, perché magari pensano che gli sport per le persone con disabilità siano ad esempio il basket su carrozzina, vorrei fare basket però non posso perché non ho abbastanza forza nelle braccia. In realtà il wheelchair hockey è stato proprio pensato per persone con la nostra patologia, e il fatto è che quindi tutti possono fare uno sport, e non è un gioco, non si va lì semplicemente per stare insieme, è uno sport a tutti gli effetti, e continuo a ripeterlo perché è veramente importante e veramente sottovalutato questo aspetto. Quindi a tutte le persone che non sanno se cominciare o no, venite a provare, vi divertirete tantissimo, troverete una nuova famiglia e capirete che si può fare tutto nella vita. I ragazzi che giocano in nazionale di hockey sono tutti ragazzi pazienti di Nemo, un network di riferimento per la diagnosi, la cura e l'assistenza delle malattie neuromuscolari. Significa che il paziente può entrare in questo posto e avere tutte le cure necessarie, senza dover girare per la città per portare a termine le varie terapie che servono. Il progetto Nemo è nato dall'alleanza delle maggiori associazioni nazionali di pazienti con patologie neuromuscolari. Un'associazione che ha portato alla creazione di realtà di presa in carico dei pazienti in 4 città: Milano, Genova, Roma, Messina. Valeria Sansone, direttore clinico del Centro Nemo di Milano. Siamo ospiti di Niguarda e siamo un centro che si dedica alle malattie neuromuscolari, sia per piccolini che per grandi, dalla fase diagnostica alla fase di presa in carico anche di pazienti ad alto carico assistenziale. Abbiamo 6 letti dedicati nel contesto di 20 dedicati alla degenza, 6 letti dedicati all'alta intensità, sia per piccoli che per grandi, solitamente per fortuna sono grandi, ma c'è modo anche di accogliere pazienti piccolini nell'area pediatrica che dovessero avere necessità di alta assistenza. Ci sono altri 14 letti dedicati alle malattie neuromuscolari, che vanno dalla SLA alle distrofie muscolari, malattie del motoneurone come la SMA, e abbiamo poi un'area diurna che comprende attività di letti di day hospital e di macro attività ambulatoriali complesse o ambulatori semplici di neurologia, fisiatria, neuropsichiatria infantile, e, insomma, prendiamo in carico un po' le diverse cose. Perché i nostri pazienti risultano formalmente neuromuscolari, quindi uno pensa alla problematica dell'apparato neuromuscolare. In realtà si tratta di patologie multisistemiche, cioè che coinvolgono tanti organi diversi, e uno, lo staff permanente di Nemo è multidisciplinare nel vero senso della parola. In staff permanente abbiamo specialità di diverso ordine e professionisti di diverso ordine anche nel comparto riabilitativo. Dalle corsie del centro ci spostiamo nella palestra di Lampugnano, dove i ragazzi si allenano una volta alla settimana. Per loro la risorsa più grande ed anche la possibilità di mettersi davvero in gioco. Come ti chiami? Luca. Tu fai parte della squadra? Il 20 Milano, sì. Vieni tutti i giovedì ad allenare? Sì. Perché ti piace venire qui? Perché innanzitutto passiamo una serata tra amici e secondo l'idea di fare un campionato con anche Coppa Italia, tre partite difficili anche da preparare, ti fa sentire vivo. Io sono Riccardo. Sono il presidente della ULDM di Milano, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che praticamente gestisce l'attività di questo sport con le nostre due squadre. Abbiamo due squadre, AS Dream Team e ASD Turtle. Mi spieghi come funziona, cioè com'è che vi muovete all'interno di questo spazio? Sì, praticamente è lo sport. Si gioca con 5 giocatori in campo, con sostituzioni libere durante il corso della partita, ed è uno sport che è nato negli anni 70 in Olanda, nelle scuole. Proprio è stato creato da alcuni professori di educazione fisica che avevano degli studenti con malattie neuromuscolari, ed è stato studiato proprio con delle regole, un regolamento insomma specifico per favorire proprio la partecipazione di chi ha malattie neuromuscolari a uno sport di squadra, quindi adattando anche regole di sport magari preesistenti come l'hockey su pista o il basket alle nostre specifiche esigenze. Si ispira all'hockey, si avvicina anche per alcune regole, per alcune modalità di gioco all'hockey, però poi ha delle regole specifiche per favorire la pratica a chi ha i nostri problemi, perché le nostre sono patologie, includono tantissime forme diverse, e in alcune, cioè in tutte c'è la mancanza di forza in tutti i muscoli del corpo, in particolare braccia e gambe, però ci sono alcune forme più precoci, altre meno, sono tutte forme progressive. E così, per esempio, c'è chi, adesso faccio l'esempio tipico, c'è chi può giocare utilizzando la mazza, che è il tipico attrezzo dell'hockey, e chi invece non riesce perché non ha abbastanza forza nelle braccia, e quindi utilizza questo attrezzo che viene applicato ai pedali della carrozzina, che noi chiamiamo stick, è fatto a croce di plastico plexiglass e consente di colpire la pallina guidando la carrozzina. Ci sono anche, non è solo maschile, cioè siete misti? Sì, il nostro sport è completamente aperto a entrambi i sessi fin dalla sua nascita, e quindi anche nel nostro campionato quasi tutte le squadre hanno in formazione sia giocatori che giocatrici. Fuori dal palazzetto intanto si lavora per capire quanto e come l'attività fisica di gruppo e lo stare insieme in una squadra modifichi anche l'efficacia delle cure quando si parla di malattie neuromuscolari. Sono la dottoressa Carraro Elena, specializzata in medicina fisica e riabilitazione del Centro Clinico NEMA di Milano. Sicuramente diciamo che all'interno dell'esercizio fisico lo sport e l'attività sportiva ha un ruolo che può essere fondamentale, quantomeno lo sappiamo, insomma gli sportivi sono in generale realmente riconosciuti per avere una partecipazione sociale molto importante, per avere un'inclusione molto importante, per cui crediamo e riteniamo che anche e soprattutto nei nostri pazienti che frequentano il nostro centro possa essere indispensabile proprio a favorire un po' la partecipazione sociale, a favorire anche il benessere psicofisico, sociale dei ragazzi, soprattutto sia fondamentale l'inclusione in una squadra sportiva. Chiaro che poi, parlando di persone che hanno una patologia, dobbiamo scegliere magari insieme quale può essere lo sport più adeguato. Sul Wheelchair Rocker nell'ultimo periodo stiamo facendo un progetto di studio proprio per andare a indagare nelle persone, soprattutto persone affette da distrofia muscolare di Duchenne e da atrofia muscolo-spinale, quanto l'attività sportiva del Wheelchair Rocker possa influenzare in termini di qualità di vita, in termini di benessere sociale, in termini di partecipazione, di inclusione sociale, a dispetto di persone della stessa identica età e con stessa identica patologia che però non fanno un'attività sportiva. I primi risultati sembrano essere interessanti. Di fatto nel mondo generale nessuno si occupa particolarmente di attività sportiva in persone che hanno una disabilità importante, al di là magari, non so, degli veterani di guerra negli Stati Uniti, per cui ci pareva essere interessante e soprattutto utile e funzionale per rendere sempre più autonoma la vita delle persone che frequentano il nostro centro e che hanno questa disabilità. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Quella di oggi è una puntata che parla di malattie neuromuscolari, ma lo fa passando dallo sport, dal sogno di un gruppo di persone in carrozzina, il sogno di poter essere in squadra e gareggiare in un torneo nazionale. Lo sport di cui parliamo è l'hockey su carrozzina elettrica o wheelchair hockey. Io sono Marco Rasconi, sono presidente nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Qual è la tua impronta in questo progetto? Allora, io quando avevo 14 anni sono stato coinvolto in questa cosa e da lì pian piano è stata la scintilla che mi ha spinto a fare un sacco di cose in associazione, fino a diventare presidente nazionale. Adesso facciamo giocare i ragazzi, che è la cosa che ci piace di più, perché comunque è uno strumento di apertura della mente delle persone. Persone con disabilità si sentono sempre dire non puoi fare, non puoi fare, non puoi fare. A un certo punto ci si convincono. Fare sport, fare hockey, gli permette di capire che possono fare tutto e l'associazione li deve spingere a fare questo. Quindi io non faccio altro che mettermi a disposizione come tutti i volontari del nostro mondo per oggi giocare a hockey, domani andare in vacanza, dopodomani aiutarli ad andare all'università, eccetera. Perché l'associazione ha fatto questo con me e mi sembra giusto che sia patrimonio di tutti. Questo sport nasce negli anni 70 in Olanda e ad oggi in Italia c'è un campionato, c'è una federazione affiliata al Comitato Italiano Paralimpico che vede circa 30 squadre in tutta Italia. E andiamo anche all'estero a volte a fare tornei, c'è una nazionale, quindi è davvero lo strumento principe di inclusione, nasce proprio nelle scuole, dall'idea dei professori di far giocare anche chi aveva una disabilità. Per noi è una scintilla, perché poi noi ci prendiamo cura delle persone e lo facciamo attraverso lo sport, lo facciamo attraverso la medicina, lo facciamo attraverso la ricerca e è un pezzettino che però a parte, essendo la cosa più bella del mondo, lo è sempre, ma poi diventa. Questi ragazzi vanno tutti all'università, fanno progetti di vita indipendente, vanno a vivere da soli, fanno vacanze, si impegnano anche cercano lavoro, cioè è davvero tutto. Nemo è un pezzo, il Loki è un altro pezzo, tutto insieme viene fuori un puzzle di un racconto di vita possibile per tutti che a noi piace raccontare. NEMO è un progetto nato dall'Unione delle maggiori associazioni nazionali di pazienti con patologie neuromuscolari, un'alleanza che ha portato alla creazione di realtà di presa in carico dei pazienti in 4 città. Io sono Emilio Albamonte, sono neuropsichiatra infantile del centro clinico NEMO, quindi mi occupo principalmente dei bimbi che seguiamo nel nostro centro, ma in realtà seguo anche quelli che erano gli ex bimbi, sono un po' più grandi, ecco, come anche Alberto. Questo centro racconta un po' un'evoluzione, cioè molto importante, no? Perché un paziente che arriva qui ha accesso a diverse terapie, cure in un colpo solo, come dire, quindi si abbattono tantissime difficoltà. Sì, noi abbiamo la nostra caratteristica è quella della presa in carico del nostro paziente, no? Quindi una gestione a tutti i livelli, quindi a 360 gradi, noi la definiamo così. E in tutto questo si rientra anche poi una gestione della terapia farmacologica, che nello specifico noi gestiamo sia dal punto di vista della ricerca clinica, quindi con lo sviluppo di nuove molecole, quindi con dei trial clinici innovativi, e poi con anche la capacità di rifornire ai nostri pazienti quelle che sono state le molecole approvate poi dagli enti regolatori. Nello specifico adesso stiamo fornendo la terapia con Spinraza, che è un farmaco nuovo, relativamente nuovo, ormai da quasi 2 anni è stato approvato dall'AIFA, quindi dagli enti regolatori italiani e poi europei, chiaramente europei, per cui i pazienti affetti da atrofia muscolare spinale possono assumere questo farmaco, che è un farmaco che viene assunto per via intratecale, quindi una somministrazione chiaramente non estremamente facile spesso, perché bisogna fare una puntura poi a livello della schiena dei nostri pazienti per somministrare questo farmaco. Però arriveranno anche altri farmaci, siamo già pronti e allerta per anche situazioni molto più semplici anche da gestire, per tutte le forme di SMA, e poi altri farmaci sicuramente potranno arrivare anche per altre forme di patologia. Per la distrofia muscolare Duchenne abbiamo a disposizione un primo farmaco approvato specifico per patologia, che è il Traslarna, ma ci sono anche appunto altri trial che sono qui in corso e che quindi sicuramente ci potranno dare altre terapie farmacologiche specifiche. Molti dei ragazzi che passano da NEMO entrano poi nella squadra di hockey e le ricadute sono incredibili. Ognuna di queste persone sente infatti la bellezza dello stare assieme in una squadra. Mohamed, tu sei il capitano di quale squadra? Dream Team Milano. Da quanto sei capitano? Da 2 anni. Vieni tutti i giovedì ad allenarti? Tutti i giovedì. Per quanto vieni? Ci alleniamo per 2 ore e mezza. Alcune volte anche 3, se abbiamo tempo. Cosa ti dà allenarti ogni settimana? Mi dà positività e poi mi sento che posso anche io fare qualcosa con le mie forze, visto che molti sport non possiamo farli, almeno con ciò che possiamo fare ci sentiamo in parte utili e poi ci sfoghiamo un po' dalla routine della settimana, visto che siamo sempre impegnati, terapia, scuola, lavoro anche, quindi un po' stressanti le settimane. Fare incontro con gli amici, ridere un po' con gente che ci possa capire anche, quindi anche organizzare uscite al cinema o qualcosa, visto che è anche più facile, perché fra di noi sappiamo i nostri limiti e sappiamo che dove andare, e non come con i nostri amici che molte volte trovano difficoltà a trovare ristoranti o robe varie che siano accessibili. Ma non perché non vogliono, perché non li conoscono. Giovanni, tu sei l'allenatore della squadra, cos'è che stavi dicendo adesso? No, stavo dicendo ai ragazzi di prepararsi, che ci prepariamo per l'allenamento, no? E perché la settimana prossima abbiamo un impegno abbastanza importante, che è contro Torino, che è la prima in classifica del nostro girone, fra l'altro. Stefan, tu da quanto giochi invece nelle Tartar? Io gioco hockey da 6 anni e appunto sono uno dei primi componenti del Turtles Milano. Sì, si gioca appunto da 6 anni. Tutti mi stanno dicendo che la cosa più bella è lo stare insieme fondamentalmente, ma anche mi sembra di capire il grande impegno sportivo. Sì, perché, come dire, è una possibilità che molte persone danno per scontate, ma che appunto lo sport non lo è. È una, proprio una bella possibilità aver trovato uno sport nel quale uno può dare il massimo e impegnarsi in qualcosa che vada oltre all'ordinario. Voi siete tutti con la sedia a rotelle? Sì, siamo tutti con la sedia a rotelle elettronica. Vabbè, con la quale appunto possiamo giocare a hockey. Ed è una sedia particolare, pensata proprio per questo sport? Ci sono le carrozzine progettate appositamente per l'hockey, però dato che hanno abbastanza un costo elevato, non tutti i giocatori le hanno, perché comunque è una carrozzina che non può uscire dal campo da hockey. Quindi molti giocano con la loro carrozzina di tutti i giorni, la adattano un attimo per il giocare, perché appunto la carrozzina non può andare più di 12 km orari e deve avere delle protezioni laterali per quando si hanno gli urti, per non farsi troppo male. Contenti quasi più dei ragazzi ci sono i genitori. Molti di loro, ormai avanti con l'età, fanno i conti con le difficoltà vissute fin qui e con la bellezza di aver incontrato un progetto come questo. Io sono il papà di Fausto. Lei lo porta tutti i giovedì? Io lo porto tutti i giovedì a Fausto. In più, quando ci sono le partite Genova, Torino, Monza, da quando Fausto fa hockey è cambiato tantissimo. Diciamo, quando lui gioca, che viene a fare gli allenamenti, diciamo, già gli passa la tosse, respira meglio, c'è tutto un altro tipo di armonia. Ma si vede il cambiamento quando è a casa che non va niente, e invece quando è qua con gli altri ragazzi che gioca è un bel sport che, diciamo, rivitalizza tutti i movimenti del corpo muscolari del ragazzo. E anche a lei forse fa piacere, no, stare qua? A me fa piacere, giustamente, che vedo che lui migliora, che a livello respiratorio, a livello... Lei è? La mamma di Camilla Diario, è portiere dei Turtles. Si chiama? Io, Mara. Signora Mara, cosa significa per lei portare qui sua figlia? È un successo, è un successo. Io sono veramente felice perché sta nel gruppo, si diverte tantissimo, si prende tutte le soddisfazioni che tante volte nella vita non hai, al di là della scuola, al di là del lavoro, al di là dell'integrazione sociale, e questo è un modo per integrare. Per quanto riguarda me, io vederla solo felice così, sono più felice di lei proprio per questo motivo, al di là delle vincite, delle perdite, ma proprio l'integrazione sociale, è una comunione tra ragazzi. Io li vedo felici, è una squadra proprio felice, contenta, che si diverte, che tira via tutte le problematiche, anche al di là delle patologie, al di là di vai a fare le visite, vai in ospedale, vai a fare mille cose che, insomma, determinano un attimino la quotidianità, e ti trovi in una situazione in cui dici: Madonna, domani vivo, domani muoio, domani sono contento, domani sono infelice. E invece così ti dà un, sai, quella quinta marcia, la sesta marcia per poter sorridere, vivere e essere felici nel gruppo. Cristo Reyes, papà di Giovanni Paolo, allenatore di Turtles. Ah, quindi il ragazzo che aveva il microfono è molto agguerrito, suo figlio? Sì, sì, sì, è molto, molto attivo questo sport, è molto contento così, poi molto felice quando ha cominciato allenatore, è molto contento così. parlate anche fuori da qui di questo sport? Sì, sì, porta anche la sua scuola, quando il liceo porta la sua squadra lì per allenatore, per vedere tutti la sua classe lì. Ah, coinvolge tutti, sì, per sì. Fare il tifo? Sì, sì, sì. Terminato il riscaldamento, inizia la partita, un'amichevole per rivedere schemi e strategie in vista degli incontri ufficiali. A bordo pista, pronto ad entrare in campo, c'è anche Alberto, che di mattina avevo incontrato a Nemo. Una cosa importante a cui teniamo tutti molto, ci tengo a dire a tutti gli ascoltatori che noi qui abbiamo sempre bisogno di tifo, di persone che vogliono venire anche a fare i volontari, oppure di persone che prendano a cuore il nostro sport e vogliono sponsorizzarci in modo da rendere possibile per noi il fatto di poter continuare con questo sport, di diventare sempre più forti, di tornare in A1 dove siamo stati per tanti anni, o anche semplicemente di far appassionare nuovi ragazzi e ragazze a questo sport e a questo mondo meraviglioso. Dov'è che possono avere informazioni sulle partite per partecipare come tifoseria? Beh, c'è il sito del Dream Team, che è di Dream Team Milano, e lì si trovano tutte le informazioni sulle partite, sulla squadra e quindi tutto quello che vi serve per venirci a vedere e tifare. Ci fermiamo qui, potete scriverci a diario@radio24.it. grazie a Carmelo Lauricella in regia, un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno, cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.